America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Oggi festa del lavoro in America, riprendo le trasmissioni del programma del nostro America 24 dopo la pausa estiva, mercati chiusi, un'America in vacanza che chiude proprio con questo fine settimana l'estate. Beh, devo dire che insomma, ricominciando, volevo recuperare un po' dei fatti importanti delle settimane passate, dalla Federal Reserve che potrebbe cominciare la stretta dell'economia, alla borsa incerta, ma tutto sommato positiva, l'economia che tiene, ma su tutto domina la Siria, e dunque dovrò inevitabilmente parlarvi di Siria, un evento ancora aperto, un attacco annunciato, una guerra sospesa così a mezz'aria, un dramma politico che ci ha riservato continui colpi di scena. The President of the United States is committed to securing the unity of purpose that he believes strengthens America, and I believe the Congress will see that that's the responsible thing to do here. John Kerry, il segretario di Stato americano, ha parlato ieri in ben 5 trasmissioni televisive. Mi è sembrato, devo dire, stanco, il volto gonfio, addirittura ammaccato. Ha detto: sono certo che il Congresso approverà la richiesta del Presidente per un'autorizzazione ad attaccare con una missione mirata, rapida, efficace, la Siria, colpevole di aver ucciso con quell'attacco del 21 agosto scorso oltre 1.400 persone, centinaia di bambini. Insomma, l'ottimismo su questo voto che ha mostrato Kerry è ovviamente ammirevole, perché tutti abbiamo visto le immagini orrende di quell'attacco, abbiamo poi seguito il dibattito politico, abbiamo sentito Barack Obama, però a questo punto l'operazione militare passa in secondo piano, parte quella politica, parte l'azione per un voto in Congresso a Washington, dopo che la settimana scorsa, con un voto analogo, il Parlamento britannico ha distrutto invece la credibilità politica del primo ministro David Cameron. Quindi in qualche modo Barack Obama si espone a un rischio. Per questo Kerry ha detto è stato coraggioso, per questo sta già costruendo diciamo la piattaforma politica su cui cercare di convincere i deputati e i senatori a votare a favore di questa missione. Per esempio ha rivelato ieri che ci sono nuove prove che confermano l'utilizzo del gas, in qualche modo potrebbe essere un'anticipazione di quello che sarà il risultato delle inchieste, delle indagini degli ispettori dell'ONU. I will seek authorization for the use of force from the American people's representatives in Congress. Ecco, avete sentito la voce del presidente americano Obama quando ha parlato dal Giardino delle Rose sabato, con questo drammatico annuncio in cui ha cambiato tutte le carte in tavolo. Obama dice che per l'attacco alla Siria si attenderà almeno fino al 9 di settembre, quando il Congresso ritornerà in sessione a Washington. Poi in realtà sappiamo che ci vorrà un dibattito lungo e passerà almeno un'altra settimana. Parlo di sorpresa e voglio parlare anche di passo indietro, perché ogni messaggio che abbiamo avuto dall'amministrazione, noi giornalisti accreditati alla Casa Bianca, era inequivocabile. Abbiamo fretta, sia che si trattasse del segretario di Stato John Kerry o dei briefing collettivi in conference calls convocate con preavviso di un'ora, o di indiscrezioni che abbiamo raccolto da esperti che lavorano con lo staff per la sicurezza nazionale. Devo dire, l'accento era sempre molto chiaro sull'urgenza, sul fatto che una decisione era stata presa, sulla necessità di agire rapidamente, di chiudere la partita dell'attacco alla Siria in un paio di giorni, prima del G20 di San Pietroburgo, che si terrà poi questa settimana, il 5-6 settembre, sotto la presidenza di Vladimir Putin. Ecco, e il contrasto fortissimo fra un presidente che prima decide di andare all'attacco e fa tutte le comunicazioni del caso e poi all'improvviso si ferma. Ecco, è questo contrasto che secondo me ha creato molte perplessità. C'è un rischio nell'azione di Obama. Cosa succederà se il Congresso gli voterà contro? La partita è ovviamente è complessa e si gioca su più livelli. Un primo interlocutore è il mondo arabo. Ieri Kerry è riuscito a strappare una dichiarazione della Lega Araba, inizialmente contraria a un attacco contro la Siria, in cui si chiede di punire i colpevoli di quell'attacco chimico contro la popolazione civile. È una dichiarazione, devo dire, alquanto vaga, ma per la Casa Bianca basta. Kerry ha interpretato questa dichiarazione come una copertura politica o comunque un appoggio dell'azione americana che potrà far valere con deputati e senatori. Ecco, un secondo interlocutore è il G20. Vi ho fatto appena sentire Vladimir Putin, che ospiterà questo G20 di San Pietroburgo. E il dramma aumenta, perché sappiamo che Putin è la spina nel fianco della Casa Bianca, è un osso duro, ha schiaffeggiato l'America varie volte quest'anno fino alle decisioni di dare asilo politico a Edward Snowden, l'ex dipendente della National Security Agency, che ha rivelato al mondo segreti chiave per la sicurezza nazionale americana. Ecco, in casa russa Obama cercherà altri consensi internazionali, cercherà di contare chi fra i 20 che partecipano a questo incontro possono, così anche in termini generici, essere favorevoli a che ci sia un'azione punitiva nei confronti di chi lo stesso segretario Kerry ha paragonato a Saddam Hussein, ha paragonato a Hitler, gli unici leader che hanno usato armi chimiche contro le convenzioni firmate addirittura negli anni 20. I see Assad, who has protected Christians for a number of decades, and then I see the Islamic rebels on the other side who have been attacking Christians. I see Al-Qaeda on one side, the side we would go in to support, and I see it to be murky, and I don't see a clear-cut American interest. Infine, devo dire tutto quello che sarà il lavoro di tessitura di Barack Obama, di Kerry, della sua diplomazia, punta a questo voto in Congresso. Vi ho appena fatto sentire il senatore Rand Paul, che ha parlato anche lui ieri, un repubblicano di destra, contrario all'attacco. Assad, dice Paul, protegge i cristiani contro gli islamici. Sono posizioni ovviamente molto criticabili, però se da una parte Obama non dovrebbe avere problemi con il voto al Senato, il problema potrebbe emergere con il voto alla Camera. I repubblicani potrebbero cogliere l'opportunità politica di indebolire il loro avversario, quindi in realtà della Siria gli importerà poco, specialmente visto che ci sono elezioni politiche l'anno prossimo. Però la campagna dell'amministrazione è già partita, hanno mostrato funzionari dell'amministrazione vari documenti relativi alla violazione da parte della Siria. Ecco, non credo che lo sappia nessuno, se questa mossa a sorpresa di sabato del presidente, che pure poteva agire senza l'ok del Congresso, avrà successo. Certo, la leadership di un politico che cambia idea all'improvviso su una questione importante come l'avvio di un'azione militare, ne esce indebolita. Però bisogna anche riconoscere che Obama ha deciso di correre un rischio, avendo allungato i tempi del dibattito. Obama, l'idealista, immagina di poter chiudere tutti i 20 grandi, il Parlamento americano, nell'angolo del confronto con le proprie coscienze, con le proprie responsabilità davanti alle nuove sfide asimmetriche che si affacciano sul nostro futuro, che sono ben presenti, davanti al pericolo che, una volta superato un tabù, diventi normale poi usare le armi chimiche oggi e quelle nucleari domani. C'è un messaggio anche implicito nei confronti dell'Iran. Insomma, se Obama riuscirà in questa sua missione, avrà vinto la sua battaglia, la battaglia forse più importante della sua presidenza. Se fallirà, prima fra i grandi del mondo, e lo vedremo fra qualche giorno a San Pietroburgo, poi a casa, la sua presidenza rischia molto, rischia di finire con 3 anni di anticipo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Soprattutto mandatemi i vostri commenti su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno, Labor Day, fine dell'estate. Dunque non posso che proporvi Summertime nell'interpretazione di Billie Holiday. Then you spread your wings and you take the sky. Da New York è tutto. Mario Pratero vi saluta, vi dà appuntamento a domani e ai prossimi giorni da Stoccolma e da San Pietroburgo al seguito del presidente Obama. Goodbye and get going.